storie de noaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Un saluto affettuoso a tutti gli ascoltatori di parte di Gesi e di Antonio. Eccoci qua, Antonio, anche stasera per festeggiare la festa della scienza, che la nostra amica Franca ne parlerà ampiamente. Bene. Allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet, che è bluradioveneto.it, e il nostro numero di telefono per SMS, consigli, proposte, suggerimenti ed altro. Il numero 346 26 20 033. È anche possibile naturalmente l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione. Naturalmente senza dimenticare un saluto al nostro regista e alle amiche e agli amici, soprattutto quelli lontani. Eh certo, ci ascoltano sempre, sai. Questo è un grande piacere che ci fanno, naturalmente. Il nostro regista è qui sempre presente, sempre buono e sempre paziente. E vigile. È vigile. Allora, stasera, come abbiamo appunto accennato prima, si parlerà di Venezia, cioè della festa della scienza, a, come la traduzione dell'ascensione, naturalmente, per i non veneti. Sì. Ah, perché è vero, sì. Certo, qui ci stiamo allargando, quindi dobbiamo avere attenzione chiaramente anche ad altre lingue, non solo al Veneto. Che poi la festa dell'ascensione era giovedì, ma adesso si festeggia tutto di domenica, e quindi festeggiamo di domenica. Esattamente. Allora andiamo con la prima canzone. Va benissimo. È una canzone veneziana, molto allegra, ed è Sul Ponte del Rialto. Venezia mia, ti sei bella, ti sei regina di tutti gli amor. Pare da Ninetta a San Marco con tutti i colombi che caro tesor. Sul ponte del Rialto, Nina mia, Nina mia, te porterò stasera a fare amor. Vicin vicin de ti, cocoea mia, cocoea mia, te pasarò e te strenzarò al mio cuor. Mia Venezia se veste de festa col scial, come una dama ti slussi signora, ti sei regina del mar. Sul ponte del Rialto, Nina mia, Nina mia, te porterò stasera a fare amor. Vicin vicin de ti, cocoea mia, cocoea mia, te basarò e te strenzarò al mio cuor. È Eccoci di nuovo in studio e fra qualche secondo sentiremo la voce di Franca, la nostra Franca che ci ha accompagnato per tante tante trasmissioni. Franca? Sì. Buongiorno, buonasera. Buonasera Franca. Buonasera a tutti e tre. Saluti. Buonasera. Sparagno e parole. Bentornata Franca. Grazie ai vostri inviti abbastanza frequenti e solleciti, insomma mi sono contenta. E... Bene, ti fa piacere, ecco. Quindi sì, perché so che dopo in giugno andrai in quel della montagna. Sì, andrò là e andrò a farmi un fiore cultura cimbra. Ah, oh, ecco. Che bello. Ecco. Sì, cara, che sono più interessata a mia cultura cimbra che i cimbri. Assolutamente, questa è una cosa molto importante, sì. Le identità, le tradizioni, a volte che effettivamente si interessa. Guarda, però una piccola parentesi su quel rione dove che vado mi i ragazzine che va a scuola e medie superiori, e se stai altro anno educai da una professoressa di Vicenza che insegna il dialetto chiogiotto e fai commedia di Goldonia. Straordinario, ecco, vedi tu cosa che vuol dire l'esempio, sì, ecco. Sì, sì, parla il chiogiotto, ma io dico benissimo. E dopo, vabbè. Vabbè. Allora, stasera ci parlerai dell'ascensione. Sì, difatti, oggi che si sta a Venezia, sta la famosa festa dell'ascensione del nostro Signore, che noi altri a Venezia chiamiamo ascensa in dialettale, insomma, però è l'ascensione. Questa festa qua comprende tre episodi storici che si attaccano tutti a ascensa. Ah. Allora, andiamo avanti, che sarebbe, diremo, proprio la festa dell'ascensione, che sarebbe il matrimonio di Venezia col mare, dopo che c'è la fiera dell'ascensione o di Ascensa, e dopo che c'è il particolare del Bucintoro, il famoso galeone, barca d'oro, quello che vuoi dire, insomma dopo vi spiegherò qualcosa se c'è tempo. Allora facciamo gli auguri a Venezia per l'anniversario del matrimonio. Sì, sì, praticamente, è tanto che... Insomma, cerimonia non è come quelle che faceva i tempi andati. Sontuose, perché, eccetera. No, non è più, adesso si limita ad andare fuori con quella barca, diremo, particolare che fa l'apertura del corteo in Canna Grande con che sia regata storica, la seria San Marco, diremo. In parte con quella, che sia il patriarca, che sia il sindaco... E va al mare, hai che buttare una corona, l'aneo non credo che io butta più perché non si usa più, loro questa schei, che a volte che ne c'era tanto, e che dà una benedizione, dopo gli fai i suoi cerimoni, si ferma insomma dove chi era fermato. Si mantiene il rituale quindi. Sì, il rituale resta, perché sarebbe anche un fiantin pagano sto rituale. Ecco, ora andiamo avanti. Boom. Sì. Allora, per i veneziani... Questa festa non voleva dire solo l'ascensione del Signore, ma voleva dire, e vuol dire ancora, matrimonio di Venezia col mare. Dopo che si è fiera campionaria in piazza, dopo che si è la storia del Bucintoro e il particolare dei re magi, che dall'alto di Torre del Reogio a ogni batte delle ore viene fuori una portesia, che dopo magari vi spiegherò meglio, sì. E si inginocchia davanti a Madonna che è proprio su una nicchia sopra la torre dell'orologio di Piazza San Marco. Allora, sta giornata è stato un concorso straordinario dei foresti, adesso non so quanti che ne siano, cioè i foresti che adesso ne si guida una volta in pratica. C'è gente diversa. Sì. Sì, che veniva da tutte le parti della terra, che c'era regate, che c'era i bancarelli, ogni sorta di mercanzie, e tutto questo durava 15 giorni. Ah, io. Addirittura. È il periodo, sì, di questa festività durava, perché io attirava popolo. Ah, che capio, che c'era grana, sì. Che c'era grana, secchini, tutta questione di soldi. Sì, e beh, cioè, gli faceva anche bene. Gli dava anche a spettacolo, no? Perché sta festa di Ascensa è famosa e c'era una dei più originali e complicate che si possa immaginare. Da principio... Ma perché complicata? Complicata perché c'era tante robe, Zesi. Che c'è tanta storia anche di poetica in mezzo. E ora adesso qua vi spiegherò il perché che si sta istituita. Ti pareva che non ci fosse la politica. Che c'è due storie qua, ma storie veramente serie, ecco. De spada mia, spada ti, spada ai, ti, ai, che sparo mia. Ai. Va bene. E ora c'era una... Da principio... quando che è stata istituita, diremo che era una semplice visita al mar celebrativa e anche propiziatoria. Ma col tempo passare un po' qua volta è diventato un atto di investitura e di possesso sempre col mare e oltre al mare. Punto. Io facevo con una semplice benedizione e dopo si arrivai a un matrimonio. Questa è l'origine della storia, adesso vi racconta. Bene. Se dall'impresa sua Dalmassia, che nel 997 c'è di altro. Veramente. Venezia gode sua supremazia del mar quando il doge Piero Orseolo, di che a volta è, el parte dal porto del Lido questa flotta verso le coste dalmate. El parte in aggiunto de città sottomesse al dominio greco. Ste città Egera, Istria, Pola, Pirano, Zara, Ragusa, Veglia e Erbe. Egera è che sì, perché è sicura. Sì, ma sì, che a sì. Volte che aveva problemi. La flotta veneziana, dopo una difficile manovra, e snida, oltre che ha fatto insomma le sue conquiste, sì, e ha buttato fuori dal mare i pirati narentani, che andava a fare andava a abordare navi. Gli agguati, come chi fa adesso i pirati. Sì, come adesso, per stessa roba, ti vedi. Manovra così forte da tenere per sempre le acque del Golfo nette dai minacce dove i slavi e tonnemi narentani sedera sediai. Io rispettavo apposta queste flotte all'arembaggio e chi era dura che vinse. Certo. Allora, Eurei dice che da quel momento, specialmente a Dalmassia, cioè dei narentani, era ufficialmente da quel giorno a Dalmassia e passava sotto la giurisdizione marittima di Venezia. Ecco. Più tardi vennerà riconosciuto nel 1885 dall'imperatore Alessio. Venezia viene riconosciuta col titolo concesso al doge, un altro ancora perché c'ho un altro nome, era Vitale Falier, col titolo de Dux Dalmatie Misericordia Dei. Cioè Iuga Vudo, oltre che avere supremazia, era anche che comandava come doge in casa. Duca. Sta vittoria era degna della sua celebrazione. E torna in patria sto doge e decreta che da quel momento e per ogni anno a venire, nel dì dell'Assunzione, portandosi in bocca al mar a benedire queste sante acque, invocando quete e bonassa a quanti navigava. E le prime parole che io ripronunciava era: varda o signor dei tempeste i tofedei marinai, varda e dal naufragio improvviso e dai perfidie dei astuzie dei nemici. E divemmo in arentani. Un altro modo era, in segno d'eterno dominio, noi doge della Serenissima ti sposiamo mare nostro. Ma proprio la cerimonia, un rito unico, stile. Un rito, sì, unico al mondo, credo. Cosa? Un rito unico al mondo. Sì, sì, non che ne esatto, no. Un'altra versione, se ti sposiamo mare in segno di perpetuo dominio. Dopo che ne sei uno in latino che riprende questa qua e ha eso come che so buona, e ora diceva desponsamus te mare in signo peri perpetique domini. Ti sposiamo a mare. Un segno di volontà proprio, di volontà di dominio. Ecco che ciò è anche sempre sparonzonamento, però sì, sì, c'è anche merita. Giustamente. Allora, gli si portava al mare, insomma, passa del tempo e dopo 50 anni di sto fatto del 1885, chi ha avuto sta riconoscenza da coso, sotto il comando di un altro doge, viene in alzà a vicino al porto del Lido, proprio al Lido, dove che si sbarca adesso col battello, col motoscafo, che è la chiesa di San Nicolò, è più antica chiesa che è il Lido, viene in alzà sta chiesa consacrata a San Nicolò di Mira, perché io di quando chi partiva dal Moio, andava proprio in bocca al porto, al mare aperto, e dopo qui tornava in Drio e si fermava a fare un rinfresco in pratica. Però è accesa inizialmente nella Ghesera, gli ha costruita dopo. San Nicolò del Mira. Sì, del Mira, il monumento in Caqueo. ho capito. Sapevamo tutto. Mamma mia. Sta attenta. Allora, sta chiesa consacrata a San Nicolò. Sto santo è zera considerà il Poseidone dei cristiani. E Gesù perché? Perché Iuga aveva facoltà di calmare e tempeste, ma anche volendo di provocarle. E faceva maltempo. Il bello cattivo tempo. Poseidone era un dio greco. E cioè il dio del mare. Non so che dopo il gazzapà dei greci, i latini. Sì. Allora, sta cerimonia, andiamo avanti qua storia, è ad evento più importante della primitiva, cioè dei primi con quei benedizioni che dicevo, e con questo si è andati avanti 180 anni, con quel rito che ti chiamo per la questo fine, rito, sì. 180 anni, fin tanto che Venezia ha rinforzato la sua indipendenza e l'equilibrio tra Cesa e Impero, ecco la politica che arriva. Sì, come sempre. Un gioco che ha culminato in quel leggendario capolavoro di diplomazia che sia stata la famosa pace fra Federico Barbarossa e il Papa Alessandro III, che viene a farla qua a Venezia nel 1777. Qualche secolo fa. No, 1176. Appunto, qualche secolo fa. Ma mi ti sa che parlo sempre di altro. Certo. Allora, questo è successo nel 1177 in San Marco e questo quasi è il risultato. Dopo aver fatto la pace, si è dato basi, strucchi, come che siamo niente, no? E ora il Papa che dice al doge, ecco il Papa Alessandro che a mostrare la sua riconoscenza per la pace fatta è colma Venezia di indulgenze, facendo che al doge, ora un altro ancora, Sebastiano Siani, un bel regalo. Un aneo d'oro benedio, e perché ha pronunciato parole, ricevio, o doge, impegno della sovranità che voi e i vostri successori avrete sul dominio del mare. L'intento già era proprio un invito. Anche di estenderlo. Una validazione. Sì. Allora, un cronista dell'epoca rimanda questa frase, è un fiantin con qualche parola di veneziano più antico, ma spero insomma che sia abbastanza comprensibile. E ora il dice, e qua Messer lo Papa si presenta con un anello d'oro, dicendo che lo sposasse lo mar come l'uomo sposa la donna per essere suo signor. E ogni doge, da quel momento, faceva fare una vera d'oro ogni anno di ascensione. Sai quanto mi piace questo modo di parlare di allora? Il messere, mi piace messerlo Papa. Una vera lingua il veneziano dell'epoca. Mi piace tantissimo. Però, ti dico, Antonio, il gera comprensibile da tutti. Esattamente. Perché è un dialetto... che non è storpiato certe parole incomprensibili, c'è Coccolon. Sì, infatti. Ecco, Franca, un attimo che ci fermiamo per una canzone e poi riprendiamo. Va bene. Bene, allora, la seconda canzone in programma è cantata da Andrea Boccelli ed è La luna che non c'è. Te la nostalgia che ti sorprende all'improvviso, rallenta un po' la corsa che ti ha tolto il fiato e ti ha deluso. Se il mondo intorno a noi non ci assomiglia mai, dividilo con me. Yeah. cielo, quanto spazio c'è qui dentro me, e ci sarà adesso che mi vuoi così anche tu. Ritroverai la tua magia, piccola stella innamorata. Ancora c'è in questa notte appena nata, il buio porterà con sé i fantasmi suoi, e se non dormirai io ti ascolterò e ti stringerò. Eccoci di nuovo in studio e ancora con la Franca. Grazie per Bocelli. Ah, ti è piaciuto? Sì. Ah, una bella canzone, vero? Vabbè, allora torniamo a sto doge che ogni anno, diremo, faceva fare a Sovera de Oro, sempre il giorno ha detto, compagna precisa di quello che portava il deo, che poi dopo veniva rotta quando io moriva. I dopi che ne faceva un'altra nuova. Ah, rotta addirittura. Sì, sì, rompeva. E ora dice così, poi non lo so. Bene. No, perché ti pensi, guarda, che c'è certi storici che dice che quando che buttava, che ha cominciato a buttare l'aneo, diremo, non sai che fosse andato a fondi. Era il gatto con la cortesina. Dai, questa no. È una, come dire, una insinuazione, se vogliamo. Sì, dai. Sì, è cattiveria, ti vedi perché arriva. Allora, torniamo a... Nel suo famoso giorno, allora, dopo che si è passato tanti anni, a testa del più superbo corteo nunziale che mai si avesse visto, arriva al faro del Lido e girando a pupa del Bucintoro al largo, el buttava nel mar prima quattro giansi di acqua benedia e dopo è la formula che avevamo detto prima, che responsamo Maria. Sì, sì, sì. E qua mi tengo opportuno, dato che il matrimonio del mare io fa a costo Bucintoro, parliamo di questa imbarcazione. Mm-hmm. Ecco. Volevo chiedertelo io del Bucintoro. Sì, e dopo parliamo, se c'è tempo, parliamo di altre robe. Il Bucintoro all'inizio, e Gera fa conto, non so se Antonio che è presente, fa conto il vecchio bruceo. Sì, sì, proprio esatto. Il vecchio, una carcassa, insomma. Ecco. E che non aveva né remi né niente, proprio una barchetta che aveva due o tre rubettine, ma insomma non sì, era... niente di speciale. Non aveva niente, solo le personalità che c'era dentro, il doge, quella moda che si usava che a volte, insomma non c'era vestito tanto da come che sontuoso, dopo esatto. E sta barca, sto Bucintoro, il primitivo, diciamo, era trainato da altre barche a remi e io tirava con la corda. Quindi era rimorchio in sostanza. Era rimorchiato, ecco, era rimorchio, che era magari una barca più, insomma, perché tacco a corda io sì, tirava, sì. Pensi se capitava giornale di vento e bora, perché no, succede. No? Sì. Cioè, era che se è piova, chi prevede sempre con questa giornata, e difatti è il modo di dire se piove il giorno di assenza, però è piova una via, insomma, Venezia, può venire anche in qualche altra parte, perciò sto proverbio non tengo tanto in considerazione. No, ma io ricordo un anno che ha piovuto per l'ascensione, sì, per l'ascensione, va bene, ma io, E abbiamo avuto pioggia per tanti giorni. No, Venus è che piova 40 giorni continui, magari puoi fare una sera, un temporale di notte, però insomma vabbè, torniamo a sto benedetto Bucintoro. Allora, il Bucintoro, qui ora andiamo a quello più bene, no, ma partiamo qua con quello più brutto. Dunque, è Elzera, una gran nave, la chiamava nave da cerimonia, tutta intarsiata e circondata da statue, divinità, bestia di oro, veudo, fiocchi, franze, piugana, più pensa che lusso. No, già era potente. Riservata al doge e al suo seguito nelle feste più solenni e nei ricevimenti di gara, ma soprattutto per l'andata al mar al dì dell'Assunzione. Proprio già era particolare per quello. Il simbolo. Sì. Su navi piatte, o diciamo nave, ma già da barche, insomma, adobai a manco peso, c'era i primi andai del doge in bocca al porto. Ma il nome Bucintoro, proprio la parola Bucintoro, fa la sua prima messa in acqua nel 1200. Proprio come Bucintoro, prima era una barca. Sì, senza infamia, senza lode. Questo Bucintoro di lusso, insomma. Dopo andiamo avanti. E nel 1300 una barca trionfale, con sto nome, viene per prima volta fatta per l'occasione sul decreto del Senato. Da dove salta fuori questo nome non si è certo, ma i studiosi vuol che il primo naveggio viene ordinato con la capienza di 200 uomini, cioè doveva contenere 200 uomini. Enorme. Tra diremo tutto il personale, il seguito, i senatori, chi più ne mette, insomma. E i mette fra parentesi quod fabricetur navilium 200orum homini. Sì, quindi molto chiaro, sì, in esatto. Latino. Chi invece fa derivare da una corruzione de burcio, bucio o buson de oro. Chi invece deriva sto nome da essere grando do volte grando, cioè el Virgiliano Centauris dell'Eneide. L'Eneide nomina sto Centaurus, che vuol dire cento. Beh, centauro non sembra un coso grande, no? Sì, vabbè, ma io dice solo dall'Eneide. Ma ecco, cioè dice che io vuol due volte grando il Virgiliano centauro dell'Eneide. Ok. Boh, è qua. Una pianta antica di Venezia lo presenta nella sua prima forma senza remi, come abbiamo detto prima, sì? E strassinata da un rimurcio. Ma nel 1526 si è notizia del primo Bucintoro a remi. E da quel momento autonomo, quindi sì, nei successivi restauri, innovazioni dovute all'usura e a sua forma non cambia tanto, ma viene variati i suoi ornamenti, perciò cambia, diremo, estetica, e non siamo ne ancora arrivati a quello definitivo. Arriviamo adesso, ecco qua, a quel modello che siamo abituati a vederlo nei più bei quadri in pitturai dei famosi artisti dell'epoca. L'ultimo, quello che ora adesso vediamo, è quello che ha fatto più storia, è del 1729. E a suo bel andare in mar, ha servito ben 69 sposaisi, perché dopo il Napoleone e lo ha fatto fuori. Esatto, caduta del Serenissimo. Costruito tutto in legno, è una lunghezza di 36 metri. Ma ancora di più fuori tutto per i suoi slanci da poppa, da prua a prova, insomma, vi parlavo in diretto, sì, ma sì, è largo 7 metri e alto 8. Un'opera straordinaria per l'epoca. Maestri d'ascia dell'arsenale, eccetera. Che ne era 16.000 che a volte lavorava. Mamma mia. E non uno. Incredibile. Era incredibile. Ridise, dunque, alto 8, e a sua forza nel muoversi era i 42 remi lunghi 10 metri. Mamma mia, 42 remi. 12 per parte. Altro che a Bagnale, la forza non è scarsa. E a maggior parte era proprio messi in opera dai più bravi arsenalotti. Sì. Immagino. Ecco, perché la parte che dicevi, dove avevi un arsenale, pareva che tirasse su scuasse. Invece no. E invece arsenalotti che aveva, ben insomma. Grande ingegno. Ecco, quattro remi per parte e ognuno manovrata quattro uomini forti e resistenti. Beh, immagino, perché 10 metri di remo. Sì, remo. Dunque, hai 168 uomini, perché c'ho 42. Per 4. Per 4, c'era 160 uomini che vogava. Sì. Che sentai su un pancon, messi di traverso e corrispondente ai portei del ponte basso, informava l'equipaggio della voga. Sul ponte più alto del Bucintoro, perché la Erga aveva due strati, il primo piano e il secondo piano, come il pullman in Germania. Sì, però anche secondo gli ospiti che avevi, sì, in Inghilterra, secondo gli ospiti che avevi, metteva le autorità magari in alto. In più, Erga aveva una copertura che si chiamava Tiemo, una tettoia, un tetto. Si chiamava Tieno. Forse quello era, se magari che c'era mal tempo, che dice come arriva, sì, però era apribile sto sì, perché tetto. Quello in alto, se non c'era qualcosa che li copriva, un Bucintoro cabriolet. Ecco, perché pensai che Verto, perché mica avevo una stampa che non avevo trovato, se non vi spiegavo meglio, una volta Verto il soffitto era tutto di travi legni, intarsiai, decorai, indorai. Una meraviglia. Insomma, era una roba che fu impossibile. Che... Avevano grana per comprare tutta sta roba? Perché... Sì, gli aveva, perché anche gli lavorava, gli guadagnava, sì, sì. E era ricchi anche di casa. Ricchi, certo. Se avesse ricchi io, quischei nostri. Gli altri non ne davi molto. Allora, dunque, sul ponte basso, sul ponte in alto, in Bucintoro, che vodo senza personale, el poteva pesare intorno ai 330 tonnellate. Mamma mia, che peso grande! Vodo! Vabbè, Franca, ci fermiamo ancora un momentino per un'altra canzone e poi continuiamo con te. Allora, la terza canzone in programma è cantata da Franco Califano, Io per le strade di quartiere. Andavo per le strade di quartiere, io con un penale tutto da pulire, io che non la davo vinta neanche morto, io che mi hanno sempre tolto il passaporto. Io, le donne, mille corpi nel cuore. Io, che ormai mi stavo già lasciando andare. Io, di notte in giro in rete disperato. Ho sempre riso degli innamorati, ma adesso ci sei tu, qui con me, ed io non rido, ma al contrario, vivo te. Che mi potevano far male, io a vivere ma senza respirare, io con tanto di passato da scordare, io un uomo nuovo tutto da scoprire. Adesso ci sei tu, qui con cantare, canto te. Eccoci di nuovo in studio con la nostra Franca. Franca? Sì, sono qua. Ascolta, hai ancora tante cose da dire sul Bucintoro? No, ho quasi finito. Ecco, che dopo così passiamo magari a un altro... Sì, finisco, sì. Allora, stai attenta, praticamente sono sul ponte in alto, che era il trono sopraelevato quasi da sommezzare un altare. E a Ghesera tutte le caricature, tutto il barocco, guarda, barocca. Sì. E in Tabarà adesso insegne come un dio pagan, il doge, era sentà, il vestiva di un largo manteo d'oro e per di sopra la famosa mantina d'Ermein, come quella che è il Papa. Cotto e azzurra, calzari e zimara d'oro, calze rosse, come un principe cavaliere, cioè era una dignità acquisita da imperatori bizantini, come privilegio diventato dopo la conquista di Costantinopoli. Però è effettivamente una cosa, diciamo, un collegamento con l'Oriente, sì, e tutto, tutto, no? Una cosa, segni proprio straordinari, sì, della potenza, ecco, del Serenissimo. Da Drio Ghezera e Portesina, dove la sovranità del doge buttava il neo sul mare, e sull'unico albero alto quasi da Farga e Gatorigo e al Sieo, sventolava stendardo di San Marco a cinque coe, con Leon e Libro Berto, quei parole in hoc signu vinces, in segno di vittoria. In segno di vittoria. Lo finio. Scusa Franca, spieghiamo... Cosa sei Gattorisio e perché? Gattorisio, isolettico. Isolettico. Perché magari chi ci sente un grattacielo, un grattacielo del mare, cioè, insomma, vabbè. All'epoca, che sono stati compositori e di musicisti che ha fatto delle lodi a sta gran naveso d'oro, addirittura dei madrigali musicali, addirittura da Antonio Lotti. Ecco, era uno dice: vien fuori dall'arsenal una novissa, così miciamo il nuovo Bucintoro, l'acqua perde il color e l'onda si impissa, formando un specchio all'ampisar d'oro, e adotta se sento mia e più zecchini, e se l'ha visto portare a sacchi, a monti, i drappi, i stai dal coradini, e la dami gacusio romane e ponti, altri che ha messo gaiani e altri manini, ma il bel corpo si sta formato da Stefano Conti, e se costasse tanta mie ducati che a volte insomma non c'era una bazzeccola. Sti drappi, sti monti, ste robe, c'era proprio i fiocchi e franze, tutte caene d'oro che metteva, ti ha capito? Sì, sì, sì. Una cosa straordinaria. Di... Dopo, quando partiva, che c'era, andava io con i barchi che cantavo, i madrigali, suonavo i tamburi, i trombe, che più che ne metta, che se un altro, appunto, musicale, una madrigale, giustamente musica d'Antonio Lotti, su parole di un certo Zaccaria Valadesso, era il dice: Spirito di Dio, che essendo il mondo infante, tanto sull'onde il piè posarvi piacque, fate liete queste acque, dove la vostra fede più salda e pura, di pietà e di valor comprovetante, da secoli nel corso intatta dura, estendasi regnante da mare a mar la veneta fortuna, finché l'eclisse fatal tolga la luna. Col Bucintoro. Bellissimo, un riassunto. Sì, no, no, ma è un riassunto, diciamo, della potenza della Serenissima, certo, che travalica la potenza, sì, socio-economica, socio-militare, eccetera. Sì, è una questione proprio culturale. Grande, grande. Ecco. Il madrigale era un componimento, sì, molto usato in quegli anni. Infatti, sì, se anche religiosamente era di madrigale. Sì, anche di religiosi, certo, sì. Sì, ed era cantato sempre a 4 5. Certo, prima di partire, pochi che c'era messa se in piazza, non so quanti, sì, tedeum chi cantava, quanti, sì, campaneamenti, il campanile suonava, i campani, si stanno a cagnare, a devorare, tutto sì, colpi, sti tamburi e trombe. Ma se tu ascolti un madrigale cantato da un coro, è grandioso, sì, proprio, sì, è molto bello. Bene, adesso di cosa ci parli? E adesso c'ho, bisogna che parliamo di un fiorentino della fiera, perché ah, c'è anche la fiera, no? Ho seguito tempo, o se no... Sì. Intanto comincia. Cominciamo, dopo, esatto. Cominciamo così, finiamo e fermi. Allora, la benedetta fiera dell'Ascensione era una manifestazione che ga inaugura nel mondo e a fiera campionaria, cioè se sarà prima che dopo ha iniziato testare. Prima nel mondo, quindi un altro primato. In piazza San Marco veniva fatto a arte un porticato a forma ellittica che ospitava le botteghe d'esposizione e di vendita. Nel 1700 sto porticato se veniva io ben grandio, io cambiato modello su disegni e progetti dei più grandi artisti e architetti, dal Palladio al Canova. Però. E c'era con delle figure allegoriche, statue, robe, addirittura in pitturai da Canaetto, dal Tintoretto e tutti i massimi artisti dell'epoca. Che veniva fuori dell'epoca, sì. Dopo disegno... qualcosetta, insomma, per dunque, ricca e varia, ogni anno sta fiera si presentava con esposizione di mercanzie arrivate da ogni posto della terra. Dall'Oriente specialmente? Sì, tutto quello che imponiva che recinto che aveva saor de oghi lontani, de viaggi, de oceano, arrivava material greso trasformato e tutto arrivava dal mar su quei nave che nel 500 ne contava più di 3.000. Perciò andava 3.000 navi che andava su e giù per questi posti e caricava magari merce di qua e che ne comprava per di là e faceva scambio di merci, non so, perché ogni porto che andava magari da una parte comprava seda, da un'altra parte comprava l'argento, da un'altra parte vendeva e comprava Ana, perle, gioielli e spezie. Grandi mercanti. Sì, quello c'era ti ha capito. Sì. Ma anche ci tenevano molto queste cose. Per quello che Venezia ha avuto adesso richiesta da dopo. E di fatti insomma che ne contava più di 3.000, dato che l'arsenal che ne varava a Centenera. Immagino. A Centenera. Dopo mi penso che sia anche diventata una catena di montaggio, cioè perché già magari ogni galera, ogni nave, aveva su misura di remi, aveva su misura di... Quindi adesso parti, facevo un'industrializzazione, diciamo, ante litteram della questione. Ecco, loro Bettina poco finito. Per costruire questa ricchezza se sta necessario un paziente lavoro di secoli che permettesse di penetrare dall'Adriatico al Mediterraneo, arrivare in Africa, a Costantinopoli, primo emporio. Dei merci sta Costantinopoli. Andava dall'India al Mar Nero, dove i gran fiumi portava ricchezze da terre sconosciute. Arrivava carovane con spezie, aromi, tappei, lacche, avorio, anaco, ori, smalti, miniature che più grande ne mette. La globalizzazione l'ha inventata anche la Venezia, insomma. Sì, veniva da San Maria, dall'India, dall'Eufrate, dal Tigri. Pensa che meraviglia. Straordinario. Questa fiera annuale riassumeva tutto questo per i veneziani, secoli di lavoro, di navigazione, di attività e di gloria. Non sta solo un segno di dominio e potenza, ma anche un emblema di tolleranza e di buon governo. E di capacità, giustamente, di grandi capacità. Tanto proprio, che il poeta Francesco Petrarca nel 1304 considerava Venezia unico albergo di giustizia e pace, un rifugio dei buoni e solo porto dove sbattue da ogni dove, da tirannia e dai guerre, e riparava e salvava le navi e gli uomini che cercava di vivere tranquilli. Eccezionale. E qua finisco, anche il doge che governava la città era aveva il subordine a ste stesse leggi. Ecco, questo è il doge subordinato alla legge. Subordinato alla legge. Petrarca ha vissuto anche a Padova, a Darquava. Sì, Petrarca, sì. Era nato appunto nel 1304. Ecco, sì, 1304. Adesso quindi... hai la terza cosa? No, adesso una robetta picco, Aspetta, allora che ascoltiamo la canzone, poi riprendiamo. Sì, va bene. Va bene. Fate voi. Ascoltiamo la quarta canzone in programma, bene, che è intitolata Amanti, cantata da Ornella Vanoni. Ah, beh, allora. Hanno storie d'amore senza documenti a posto, devono scegliere sempre chi chiamare e chi no. Come clandestini si muovono strisciando i muri della vita, un giro di tappe in salita. Gli amanti hanno amori precari, fanno progetti e fan finta di crederci. Gli amanti che nei giorni di festa, come naufraghi, soli naufraghi, aspettano una telefonata. Hanno storie d'amore con un passaporto falso, devono scegliere sempre chi tradire e chi no. Come sfollati si muovono terremotati della vita, un giro di valzer in salita. Gli amanti hanno amori precari, fanno progetti e fanno finta di crederci. Gli amanti che nei giorni di festa, come naufraghi, soli naufraghi, aspettano una telefonata. Fatti di stracci, lunghi come un batter di ciglia, secchi come un colpo di tosse, poveri amori nel traffico dei cuori. Gli amanti Franca? Pronto? Franca? Sì, sono qua. Allora, adesso ti diamo 5 minuti. Sì, ecco. Sopra. Allora, attenti su sto discorso di tutte queste robe che ho parlato fin adesso, che è un particolare sconosciuto da tanti. Sì. E se i famosi tre re magi che viene fuori ogni dall'orologio. Ora dall'orologio, sì. Qua. Allora, fa conto, a metà torre dell'orologio, che è una nicchia, con la statua della Madonna con Gesù Bambino in braccio, no? Dopo che sei do quadrando protesei che quando che cambia l'ora, cioè che quando che sì, ogni ora cambia sì, ogni ora cambia l'ora e se i numeri romani viene fuori l'ora con i numeri romani. Comunque non suona, non è che No, stai attenta. Allora, quando chi mori batte ore, sì, invece viene fuori prima l'orario, diremo le 9, 10, 11, sì. E se quando che ga scocca l'ora, da ste portesei che riflette questi numeri romani dell'orario, e se verse e vien fuori prima un angelo con la tromba, ah, che si inchina davanti a Madonna. Sì. Drio de Jughe se tre bambuotti, diremo, degno, vernisei, pitturai, tutti indorai, e rappresenta i tre re magi, che se il giovane, il vecchio e il moro, e se preceduti da sto angelo, e adagio, tremolando, sul sercione di metallo che ti insuso che fa fare il giro, no, passa davanti a Madonna, sporgendo che, come già sapevamo, i biblici doni, l'oro, incenso e mira. Eccezionale, questo non lo sapevo, effettivamente. Sì, ogni batter d'ora se verse portesine e vien fuori sti personaggi qua. Quindi anche un meccanismo, sì, un meccanismo particolare. Notevolmente complesso, vorrei dire. Sì, insomma, oggi se tra bei bambolotti vien fuori, insomma, Gaspare e Melchiorre e Baldassare. Ora incenso e era. Ecco, l'angelo suona la tromba e si inchina tutti quanti, insomma, davanti a sta Madonna. Dopo che così finio da batter l'ora, se si riporta un'altra volta, e quando che cambia orario si torna fuori, e questo qua va avanti, insomma, adesso sarà una settimana, ma una volta sarà tutti i 15 giorni di festività solo in questi giorni? Solo in questi viene attivato il meccanismo, per chi si abbinaia. Ho capito, no, pensavo che fosse sempre. Sì, quindi bisogna cogliere anche il momento preciso per poter... Che a volte ha sta gente che veniva da fuori, anche i foresti nostri, diremo, non qui dall'Oriente. Giustamente. Chi vede sta roba, dice, Madonna, cosa è nato qua? Tutto deve essere molto suggestivo. Ecco. Bene, Franca, noi ti ringraziamo infinitamente di tutto quello che ci hai dato. Grazie sempre per questa lezione di storia, di serenissima pratica, che è sempre straordinariamente interessante. No, che poi dopo, aspetta, tutta questa bella festa, tutta questa bella festa da... Che se avete sto incanto, sto roba, su TV, sgrissui, immagino. E ora mi ho scritto questo. Altri brividi dopo il fatto delle cerimonie, che sono importanti, altri brividi che scombusso e a città, brividi del terror quando nell'orto dell'isola di San Giorgi, al baio del fuoco, per 3 giorni e 3 notti, gascurà la laguna di Venezia per volontà dell'ingordo e dei mandi a brama del cannanetto di Napoleone, perché ha brusa tutto. 3 giorni e 3 notti e sono avanti. Mamma mia, che uno tremendo. Uno spreco di cultura, di arte, di tutto quanto. Che peccato. Un disprezzo. Allora, così, insomma, ecco. Dai. Ti auguriamo buone vacanze, Franca. Buone vacanze e proficue per una storia un po' diversa. Speriamo di risentirci presto. Sì, va bene. Buonasera. Prossima, ciao, Franca, grazie sera di tutto. Grazie. E un ciao a tutti gli ascoltatori vicini e lontani. Grazie Franca. Ciao. Ecco, ringraziamo ancora la Franca, che veramente ci ha dato quelle notizie. Beh, io questa qui dell'orologio non lo sapevo nemmeno. Ma neanche quella del Bucintoro, non la sapevo. Esatto. Bene, Antonio, vuoi leggere qualcosina sì, prima della canzone? Sì, volevo concludere così una puntata con un breve racconto da Ghegera una volta di Michela Bruniera e Gianfranco Siega, Fiabe e tiritere come che le contava i nostri veci, con illustrazione di Paolo Mameli, Filippi Editore, Venezia. Pieretto furbetto se ne approfitta perché a Vecia se ca imbriaga. La vecchia carampana, subito la iga stretta a bocca del sacchetto e strassinandosi odrio, la scominse a inviarsi verso casa sua d'Ela, che c'era nel più profondo del profondo bosco. La voeva niente manco che metter Pieretto impignata e magnarsi in concierto cheto per tocchetto. Cammina che ti cammina, quasi arrivata quasi a metà strada che vien na sé, ma na sé. E una fame, ma una fame, che non stago neanche qua a dirve quanta. E allora cosa fa? La ciappa il sacchetto e la lustrassina per sconderlo da drio di un muretto. E poi la se senta sora di un tronco là da rente, la tira fuori dalla sporta un fiasco de foresto, un crogno de pan e do perseghi, e a scominsi a far una merendata. Intanto Pieretto, che c'è sempre al scuro indrento a quel sacchetto, e il masena, il savaria su come il gadafar par venirgene fora e scampare al sicuro fin casa della sua mamma. E pensa che ti ripensa, intanto che se struca il sarveo, che vien in a mente che in scarsea il gal sobritoin, e lo tira fora, lo verse e taggia la bocca del sacchetto e via che scampa fora. E poi il secufo è a partera, sconto dal rio di un albaro, un fiappo in là, perché a vecchia non gabbia da vederlo. Ma de colpo che vien come una botta. Qua vecchia carampana la torna in rio e non me trova più, giuro morte sicuro che la vignerà da nuovo in cerca de mi. Bisogna pur che faccia un qualche imbrogio e che metta qualcosa de pesante dentro quel sacchetto. E a così, stando sempre tento da non farsi vedere, el vede un sasso beo pesante come deu e lo fa rodoer dentro il sacchetto al posto suo. Poi se cava il spago che gli teniva suso e braghette e liga da nuovo a bocca del sacchetto come che gli pareva che la fosse stata prima. ma le braghette, ahimè mei, che casca per terra e che santa ussia me orba se vardo, se che vede tutte le mudande. E ora svelto il se tira sulle braghette e se tien ben setà e coe man, poi il se seconda da novo da trio dell'albero per cavarsi a pavana da veder cosa che avaria fatto a veccia con quel sasso indrento del sacchetto. Intanto a vecciassa, una volta che aga finio da mangiare e da bever, la se alza e un fianciari, per il goto de foresto che a se aveva trincà con una siada, la ciappa il sacchetto e va avanti passo strada sempre tirandosi odrio. Cammina che ti cammina, arriva il momento che non gaffa più dalla fatica e credendo di parlare con Pieretto a se agna. Ciao, fiol de un can, cosa te la mai dà da mangiare to mare che ti pesi come un sasso? Pieretto intanto che gli andava drio pian pianeo per non farsi scorzer, e se stropava a bocca per non rider perché pensava all'imbrogio che gli aveva combinato. E intanto, sempre cammina che ti cammina, avece arriva a casa sua dea. La va drento e la sbara subito a porta perché nessuno capita da veder, ma Pieretto da fora, sempre scondendosi, il vuol veder quello che nasce e se mette in punta de pie per fargli a spia del balconsin de a spassa cusina. Il resto alla prossima volta. E allora ci ascoltiamo un'ultima canzone, naturalmente. Bene, allora l'ultima canzone in programma è cantata da Iva Zanicchi ed è intitolata Chi mi darà. Tu ancora qui, cosa vuoi, perché eri andato e sei già qui? Non mi importa se quegli sguardi tuoi cercano di offendermi. Mi spoglio di te, che non sai comprendere. Caro Antonio, abbiamo finito questa sera. Anche stasera il tempo è volato, naturalmente. Allora io come sempre ti ringrazio della collaborazione che mi io dai sempre. Ringrazio te per, certo, per l'ospitalità che ci dai. Siamo tutte e due ospiti. ringraziamo invece il nostro regista che... Esatto, le nostre amiche, i nostri amici vicini e lontani, naturalmente, e alla prossima volta. Alla prossima volta e buonanotte a tutti. Ciao! Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.